Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 20 agosto, stiamo terminando insieme questa settimana. Buongiorno a tutti e a tutti da Antonella Cortese, in particolare alle persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna e del carcere della Dozza. E bentrovati a Liberi Dentro ed Uradio TV, la trasmissione che va in onda su Radio Città Fuggico, Teletricolore e Lepida, e il programma che, ormai lo sapete tutti, vuole fare da ponte tra il carcere e la città. Buongiorno a Ignazio De Francesco, volontario AVOC, che è stato con noi per tutta la settimana. Buongiorno. Buongiorno, è venerdì, salam aleikum wa ahla wa sahlan. Tutte le persone detenute di lingua araba, di fede islamica anche, il giorno della loro preghiera. Oggi vorrei anche ringraziare queste persone che hanno donato partecipando alla campagna di crowdfunding e permettendoci oggi di essere ancora qui. Quindi ringrazio Omeila Bignami, Maria Rosaria Giovagnoli e Roberta Ricalzi. Grazie tante di averci sostenuto. Ma ora la parola passa a te, Ignazio. Di che cosa ci vuoi parlare oggi? Chiudiamo questa settimana ancora di lettere dal carcere con una corrispondenza molto, molto particolare, cioè l'idea di persone detenute che scrivono a se stessi quando erano giovani, una persona adulta che scrive al ragazzo che è stato. Questa è un'idea che è stata in America di un fotografo, un grande fotografo americano, Trent Bell, che è entrato in un carcere, un grande carcere degli Stati Uniti, nel Maine, un istituto penitenziario che ospita oltre 900 persone, e ha chiesto ad alcune di loro di scrivere una lettera ai ragazzi che erano prima di finire in carcere. E poi ha fotografato ogni persona che ha accettato di entrare in questo progetto con un ingrandimento della sua lettera. Ignazio, ci leggi qualcosa di queste lettere? Allora, ne ho scelte due. Questa è Paco, di 46 anni. Scrive così: una lettera a me stesso più giovane. Buongiorno, sono te ma più vecchio nel futuro. Voglio scriverti per salvarti da quello che sono diventato, un veterano del sistema carcerario con 20 anni di esperienza. Prima cosa, accetta il fatto che sei speciale. Lo siamo tutti, sei nato così. Sii te stesso e attirerai delle persone per bene. Se cerchi di essere diverso per adattarti, perderai la tua identità. Non dimenticare che devi essere il tuo migliore amico e che la tua famiglia ti ama. Qualunque siano le tue cattive esperienze, non lasciare che ti definiscano. Hai il potere della scelta, sempre. In questo modo eviterai di diventare me. Mi sembra un'intuizione profondissima. Sii te stesso, scrive il detenuto da tanti anni al ragazzo che era, non imitare altri, impara a riconoscere le tue qualità e riuscirai nella vita. Un'altra cosa che mi fa pensare molto è: qualunque siano le tue cattive esperienze, non lasciare che ti definiscano. Questa è una cosa fondamentale. Ma ci leggi ancora qualcosa? Sì, ancora diamo spazio, ancora una lettera, così queste lettere particolari, una persona che scrive a se stesso giovane, e anche qua potremmo lanciare l'idea di dire: scriveteci, scrivete quelle cose che scrivereste a voi di 12, 13, 15 anni. E quindi questo esperimento ancora fatto in America, William di 40 anni, una lettera drammatica, scrive: vedendo la vita che sto conducendo, vorrei darti qualche chiave di lettura per comprendere come le mie decisioni hanno avuto un impatto su di me e su chi mi stava vicino. Quando avrai 16 anni, è la persona detenuta che scrive al se stesso piccolo, i tuoi genitori divorzieranno. Lascerai la scuola per lavorare a tempo pieno. Aiuterai le tue sorelle e i tuoi fratelli più piccoli. Comprerai loro da mangiare, dei vestiti. Finita l'estate, finito il lavoro, le cose diventeranno più difficili. Penserai ad altri modi di guadagnare del denaro. Per favore, pensaci due volte prima di derubare il tipo che ha picchiato tuo fratello. Quello è un punto cruciale e devi prendere una buona decisione. Io ho scelto di derubarlo e mi sono fatto arrestare. Sono stato in galera 6 mesi e ho faticato molto a ritrovare un lavoro una volta uscito. C'è sempre una scelta e tu devi saperla prendere. Ho passato la maggior parte della mia vita dietro le sbarre e tu vali molto di più di questo. Mi sembra, Ignazio, che emerga di nuovo il tema del blackout, dal quale siamo poi partiti all'inizio della settimana, no? Esatto. Proprio quello che diceva, che ci scriveva Luana, è un attimo. E lui scrive e racconta chiaramente, parla a se stesso piccolo e gli sta descrivendo la propria vita, ha lavorato d'estate, ha dato da mangiare alle sorelle, ai fratelli, ha dato da fare, poi però le difficoltà e quella rapina per strada, ha picchiato uno, l'ha derubato, la prima carcerazione, esci la fatica di trovare lavoro e poi è una ruota che ti porta sempre più giù, ma ci dice anche che nessuno è mai solo il reato che ha commesso. E infatti è proprio così, Ignazio. Ma ora fermiamoci per la musica. È venerdì e che cosa proponi? Allora, venerdì un pezzo di musica araba che viene dalla Nord Africa, Nabila Mahan, Marocco, che a me piace moltissimo, un capolavoro della musica mediterranea, che Al Ghazal Fatma, la gazzella Fatima, ma la dedica. E stavolta per tutte le persone di nazionalità nigeriana che si trovano recluse in carcere, ne conosco tanti, Joseph che adesso è ritornato finalmente in Nigeria, perché prendano esempio da Fausto, il loro paesano che ha vinto la 4% e vincano la 4% della libertà. Ascoltiamola. Lasciamo la bravissima Nabila Mahan per parlare, come ormai di abitudine, di un animale, perché noi sapete che abbiamo il famoso venerdì animalesco, però parliamo di un animale che c'è anche simpatico, o meglio, ci fa paura, ma c'è simpatico, che è il famoso lupo. Il lupo, come sapete, è un animale che da più tempo si confronta con la nostra specie, è l'antenato dei cani domestici, ha sempre e da sempre rappresentato l'altra faccia della medaglia del miglior amico dell'uomo. Il cane è il miglior amico dell'uomo e il lupo, come la mettiamo? È il nostro competitore per la selvaggina, il predatore del bestiame domestico. È un animale che rappresenta il conflitto con le attività umane, tant'è che, sapete, spesso si avvicina alle case proprio per procurarsi del cibo e quindi fa un sacco di danni. E parlando proprio di com'è fisicamente, il suo mantello varia a seconda dell'età, delle stagioni e delle diverse tipologie. Inoltre possiede anche un pelo abbastanza spesso che è diviso in strati. La parte più esterna è resistente all'acqua e all'umidità, mentre quello interno lo isola dal freddo, quindi insomma per i climi rigidi è molto ben organizzato. Mi pare di capire che ci sono però molte tipologie di lupi, no? Molte razze, diremmo, o generi, non so come li chiamiamo. Ce ne sono veramente tante, Ignazio. Io ti dico proprio le più diffuse. Il lupo iberico, tanto per cominciare, che tra l'altro vive nella penisola iberica ed è a rischio di estinzione. Ed è di taglia media, raggiunge un'altezza di 70 centimetri, pesa circa 50 kg. Lo si riconosce perché ha delle macchie scure sulla coda, ha una testa piuttosto grossa, mangia mammiferi ed erbivori di grandi dimensioni. Poi c'è il lupo artico, che è una sottospecie del lupo grigio, che è completamente bianco, per confondersi ovviamente con la neve, si alimenta di caribù e di buoi muschiati ed è tipico dell'Alaska, Groenlandia e del Canada. Poi c'è il lupo arabo, questa razza, come immaginate, vive nella penisola araba, soprattutto in Iraq, Giordania, Egitto e Israele. E per quanto riguarda l'alimentazione, mangia lepri, pecore, capre e carogne. E il lupo per un periodo era insomma diminuito moltissimo, hanno proibito la caccia ai nomadi, quindi adesso si è ripopolato. Poi c'è il lupo rosso, il nome deriva dal colore del suo pelo, tipico della Carolina del Nord e del Sud, quindi negli Stati Uniti. Poi c'è il lupo etiope, che si confonde con gli sciacalli per il suo aspetto fisico, per la sua taglia media, per il suo muso appuntito. E è un animale molto territoriale e aggressivo rispetto agli altri, vive in branchi composti da 6 membri e si alimenta di roditori. Poi ci sono tanti altri tipi, il malaiano, indiano, il lupo italiano, rumeno, russo, della steppa, insomma ce ne sono davvero tanti. E noi che siamo sull'Appennino vediamo quando nevica le tracce del lupo sempre intorno a casa nostra di notte, il lupo italiano o appenninico o bolognese, non so come definirlo. Ma dici qualcosa ancora sulla sua vita, sulla sua esistenza? Sì, il lupo sappiamo che vive in branchi, le cui dimensioni variano in base un po' alla disponibilità di cibo e alle condizioni ecologiche. In media i branchi in Italia sono costituiti da 2 a 7 individui e il branco è un'unità familiare che caccia, alleva la prole e difende il territorio. All'interno esiste una gerarchia sociale ben definita. Al vertice ci sono un maschio e una femmina dominanti, cioè gli individui alfa, che sono gli unici animali a riprodursi. Tutti gli altri collaborano alla crescita dei cuccioli e alla caccia. E le sue prede, come sappiamo, sono per lo più mammiferi, cinghiali, caprioli, cervi, ma un po' di tutto in realtà. È un animale diffidente e intelligente, tende a evitare il contatto con l'uomo, anche a seguito, diciamo, della persecuzione di cui è stato purtroppo oggetto. L'ultima stima ci dice comunque che la popolazione alpina del lupo può essere stimata in circa 150 esemplari, mentre la popolazione appenninica in almeno 1600 animali. Comunque i censimenti sono in corso di svolgimento e purtroppo il WWF ci segnala che tra i 200 e i 500 lupi muoiono uccisi da fucilati, veleno, trappoli, investite da auto, eccetera. Ecco, allora io direi che a questo punto bisogna dedicare un brano musicale che, insomma, che abbia tema il lupo in qualche modo. Ignazio, sì, io ho scelto un brano un po' datato del 1990, Attenti al lupo, del grande Lucio Dalla. Ascoltiamolo. Una donnina piccola così, E c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavorare. E ha un cappello piccolo così, con dentro un sogno da realizzare. E più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in vela, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto. E dopo aver ascoltato Attenti al lupo, passo la parola a Caterina Bombarda, che intervista Giorgio Bazzega, il figlio del maresciallo dell'antiterrorismo Sergio Bazzega. A voi. Ben ritrovati sempre su Liberi Dentro Eduradio. Abbiamo per l'ultimo giorno con noi Giorgio Bazzega per affrontare il tema della giustizia riparativa. L'abbiamo affrontato in questi giorni. Oggi parliamo appunto dell'oggi di Giorgio, che come sapete è una tra le vittime della lotta armata ed è però ad oggi appunto mediatore penale e sociale. Come hai scelto, Giorgio, questa professione? Che cosa ti ci ha portato? Allora, io ho sempre lavorato nel mondo della comunicazione, della pubblicità, cioè non della comunicazione, che non c'entrava assolutamente niente. E mi sono ritrovato, dopo aver fatto 10 anni di percorso di giustizia riparativa, a parlare con uno dei nostri mediatori, che era appunto Adolfo Ceretti, che è uno, secondo me, dei top mediatori al mondo, anche a livello formativo. E parlando, lui mi suggerisce, mi fa: guarda Giorgio, che secondo me a livello, anche vedendo come hai fatto il percorso, come l'hai interiorizzato, come sei andato avanti, tu sei fatto per fare il mediatore. E che io, che sono sempre un po' un cazzaro, cioè nel senso, l'ho guardato e gli faccio: guarda, io non ho neanche fatto l'università, ma cosa devo fare io? E mi fa: guarda che non serve, ti formo io, adesso abbiamo un corso di formazione che sta per partire. E niente, ho fatto questo corso di formazione e l'ho fatto perché questi 10 anni di giustizia riparativa mi hanno portato ad avere quella consapevolezza che ho sempre cercato e non avevo mai raggiunto. So anche su cosa sono io, più che altro, e cosa voglio dalla mia vita. Io con la mia storia, prima di aver subito, poi di aver fatto anche tanto del male e non aver mai pagato mediamente per quel male che ho fatto, mi porta adesso a sentire un forte bisogno di restituire alla società, che può sembrare una roba detta così, ma io non sono diventato San Francesco, cioè è che per vivere bene mi sono reso conto che devo fare qualcosa durante la giornata che la sera mi porti a dire: vabbè, io il mio mattoncino per vivere meglio tutti, oggi l'ho messo. E questa mi sembrava la strada migliore. Altro motivo, che ho già accennato prima, questa era la strada più indicata e assolutamente più indicata per seguire le ordini di papà. Io adesso porto avanti i valori di papà, che era un uomo che parlava di addestrare la polizia al non uso delle armi negli anni 70, e c'è una lettera che aveva scritto all'Unità, cioè che era un giornale che era assolutamente contro la polizia in quel periodo, per farvi capire anche, secondo me anche mio papà era un po' mediatore dentro. E io adesso con questo percorso sento di portare avanti i suoi valori. Mio papà era un uomo di dialogo e per me la sento fondamentale questa cosa proprio. Per me il dialogo è importantissimo, e soprattutto in un periodo dove siamo circondati da slogan facili e violenti, dove la soluzione è sempre qualcosa di violento, è sempre qualcosa di repressivo, e mai, mai, mai che ci sia qualcuno che suggerisca invece di tendere l'orecchio e provare a capire perché magari uno, invece di dire sbaglia a comportarti così, capiamo perché uno si comporta così, cosa lo porta a essere quella persona lì. E secondo me è questa la cosa fondamentale, ed è quello che voglio fare io alla fine. Cioè cambiare anche un po', proprio dare dei messaggi diversi, far capire che non è un mondo semplice che si può ridurre in slogan, è un mondo complesso. È un mondo difficile, è un mondo che ha bisogno di ascolto. Se tu vuoi parlare all'interno di questo mondo, devi prima stare tanto ad ascoltare, se vuoi avere qualcosa da dire. Ed è una roba che oggi la vedo un po' in pericolo, questa cosa qua. Soprattutto, ripeto, dagli slogan e dai messaggi che arrivano in continuazione, anche da chi invece dovrebbe darne altri, è all'opposto sicuramente. Per cui la sento anche una funzione sociale importante. Cioè, io sento importante andare nelle scuole a parlare ai ragazzi e a spiegargli che far marcire uno in galera non gli fa capire quello che ha fatto. Lo fa incazzare e basta, perché subisce anche una forma di violenza ed è capibile. E e non fa bene neanche alla società, perché poi per una persona che può essere invece reinserita nel nostro tessuto sociale, diventare uno strumento in più, un plus del nostro, diventa un altro problema un'altra volta. E questo perché? Perché è più facile dire, parlare alla pancia della gente e dire puniamo. No, per me è importante invece far capire che la cosa importante è ascoltare, e che anche quando uno va in galera, prima o poi dalla galera deve uscire. Vogliamo che sia un qualcosa di utile, che sia almeno, che già è una roba terribile, è una forma di violenza comunque la costrizione. Vogliamo che almeno serva qualcosa, perché il carcere duro, buttare via la chiave non serve un cazzo. Io questo l'ho capito con l'esperienza, ed è quello che cerco di provare a trasmettere anche, soprattutto ai ragazzi, nei quali io credo tantissimo, perché trovo che ci siano delle generazioni straordinarie, con degli strumenti straordinari, e se gli si aiuta un po' sul lato empatico, che con le nuove tecnologie quello che fa più fatica, secondo me metteranno anche una pezza ai danni che ha fatto la mia generazione. Giorgio, guarda, sperando che siano tante le persone che in questo momento ci stanno ascoltando, e raccogliamo questo tuo monito di appunto, noi ce l'abbiamo molto come Duradio, che non serve a niente girare la chiave e buttarla via, anzi, e le persone a cui parliamo sono le persone in particolare dalle camere detentive delle carceri dell'Emilia Romagna, per cui sono sicura che saranno tutti attentissimi a quello che stai dicendo, e che genererà molta speranza questo messaggio che tu stai dando. Ci rivediamo tra poco dopo la musica e per l'ultima domanda che ti farò. A fra poco. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Once gave it away, everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there, New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Bentornati, sempre su Liberi Dentro e Duradio. Giorgio, sempre con te, concludiamo il nostro cammino sulla giustizia riparativa stando dall'altra parte, ma non è poi stando dall'altra parte, perché alla fine è un riconoscimento, si sta insieme, uno di fronte all'altro. E credi che alla fine di un percorso del genere, alla fine, durante un percorso di questo tipo, la parola così difficile, ecco, di riconoscimento / perdono sia pronunciabile? Assolutamente sì, cioè nel modo giusto, perché come abbiamo discusso fuori onda, ci tengo a dirlo, c'è un senso che si dà alla parola perdono, all'utilizzo del perdono, che a me, in senso comune, che a me non piace tanto, perché è una cosa sempre fatta calare dall'alto, da uno che migliora a un altro che rimane peggiore, e lascia comunque un dislivello che non va a riparare niente. La parola perdono, se invece è intesa come riconoscimento dell'umanità, della reciproca umanità, secondo me si può utilizzare, se riusciamo a capire che questo è il vero perdono, ovvero riconoscersi a vicenda, assolutamente io ho perdonato, si può perdonare ed è l'unico modo per andare avanti. Ripeto, non è il perdono classico del bravo che sta sul piedistallo che perdona quello che si rimarrà sempre peggiore. È una roba che invece ci porta a stare tutti sullo stesso piano. Quello è vero perdono, vero riconoscimento. E secondo me, a parte che è la chiave della mediazione della giustizia riparativa, il riconoscimento reciproco, è proprio la parola chiave. Se tu mi chiedessi qual è la parola chiave o qualcosa che ti fa capire la giustizia repartita, è riconoscimento, proprio riconoscimento reciproco. Ed è assolutamente pronunciabile, assolutamente sì. Poi chiariamo che questo non significa che si diventa amici, ma significa... Non sempre. Allora, Io sono stato fortunato perché ho incontrato anche dall'altra parte delle persone, gli ex della lotta armata, a cui dico sempre che mi hanno aiutato a crescere anche a livello intellettuale, nel senso che tutte persone che erano talmente tanto preparate che io mi sono rimesso a studiare perché mi sentivo ignorante. E anche mia mamma fa sempre la battuta, mi fa guarda che il miracolo non è che hai perdonato, che ti hanno fatto venire la voglia di studiare. Di qua. Per cui, guarda, assolutamente. Scusa. Ho dato una roba di traverso. Per cui assolutamente sì. Grazie Giorgio. Io ti chiedo alla conclusione della nostra intervista se hai un messaggio breve da mandare alle persone che ci stanno ascoltando dalle camere detentive. Non perdere la speranza e proviamo, e più che altro sperare di riuscire a essere noi a far cambiare un po' di culturalmente la visione di quello che deve essere la pena e riuscire a noi a dare un po' più di speranza anche. Perché è anche compito nostro, perché noi che siamo fuori non è che ci dobbiamo, la vediamo come una cosa lontana e spesso se ne lava le mani e dice beh tanto quelli sono là che se ne frega, no, invece è speranza, proprio una speranza anche che riusciamo a darvi noi, speranza anche per noi di riuscire a capire meglio cos'è il carcere soprattutto. Io lo dico a tutti che sembrano brutta, io auguro a tutti di fare un'esperienza in carcere, cioè di entrare ma anche come ospite, cioè non per forza, cioè, però se non ci entri anche lì, io prima di entrare in un carcere Non potevo rendermene conto, e adesso invece la speranza che ho io è di riuscire a incontrare qualcuno che mi ha ascoltato adesso di persona quando finirà sto maledetto Covid, che inizierò ancora a fare un po' di cose. Speriamo di riuscire a parlarne vis-à-vis di giustizia riparativa. E allora speriamo che tu possa venire alla casa circondariale Dozza di Bologna. Ci verrò più che volentieri. Cioè, se sarà occasione, verrò più che volentieri. Adesso abito anche vicino, quindi. Giorgio, ti ringrazio tantissimo, ricordati i nostri ascoltatori di iscriverci, metterò l'avviso alla fine della puntata, grazie a tutti e alla prossima. A presto. Ciao a tutti. E anche oggi Liberi Dentro termina qui. Ma non cambiate canale perché seguiranno delle rubriche come è solito dal lunedì alla domenica, perché le nostre rubriche, lo sapete benissimo, durano l'intera settimana. Noi siamo sempre su Lepida TV, Teletricolore e Radio Città Fuggico. E le rubriche che seguiranno per oggi nello specifico c'è la rubrica dedicata appunto all'Islam, religione e civiltà, è anche venerdì. Quindi è la rubrica giusta e poi un po' di movimento con la ginnastica da camera a cura dell'equipe sanitaria. Domani invece potrete seguire la Cappellania della Dozza, e parliamo di buddismo e Libri Dentro, una rubrica sui libri e su interviste a persone che hanno a che fare con i libri. E infine il Teatro del Pratello con la rubrica Scritture teatrali tra carcere e città. Domenica concludiamo la settimana con il CPA di Bologna, e la rubrica Venti di parole e il Teatro dell'Argine con lezioni di teatro e grandi monologhi alla prova. Grazie ancora di averci seguiti, un caro saluto a tutti da Antonella Cortese, Caterina Bombarda, Ignazio De Francesco e il nostro tecnico Enea Flacco. Arrivederci! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.